Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io ho capito dove è finito Pinocchio. Pinocchio ce l'abbiamo dentro ciascuno di noi, e non perché diciamo le bugie. La vicenda di Pinocchio è diversa. È una vicenda che dice che se ciascuno di noi prova a mettersi in gioco e a cambiare, allora il mondo fuori cambia. Anche voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi sentite un Pinocchio dentro di voi? Ci sono i messaggi per dirlo al 349-238-6666, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre a vostra disposizione quando volete intervenire, commentare, osservare. Tra l'altro, mentre c'era questa metafora pinocchiesca di Renzi, vedevo un'agenzia di qualche istante fa: Senato, Renzi pronti al voto, Grillo discute o urla? Quindi non devo andare a vedere, non ho capito bene se intende già voto per le elezioni o cosa. Adesso l'apro. Dice Renzi: dispiace che Grillo abbia ripreso la strada della polemica. Scusate, in Senato siamo pronti a votare e lo faremo. Movimento 5 Stelle ci dica: accetteranno o discuteranno, continueranno a urlare e insultare? Così Matteo Renzi in questi giorni in Vietnam e Cina reagisce coi suoi sull'attacco di Grillo. Mi è ancora un po', scusate, un po' ambigua, nebulosa questa dichiarazione. Quindi direi, vi ho detto per partecipare, come sempre lo ripeto ogni sera, il 349-238-6666, i vostri messaggi, anche se mi pare che ci sia un po' di intoppo adesso con i messaggi, o la pagina Facebook. Affronteremo diversi argomenti, però direi intanto di illustrarne qualcuno nel riassunto della giornata, come sempre. Expo 2015, il presidente della regione Lombardia Maroni lancia l'allarme: il governo si sveglia o rischiamo di non completare le opere. Ma dal PD commentano: non faccia lo scarico barile. Crisi, la valutazione dell'Ocse dice che l'Italia è l'unica ad accelerare nel G7, riparte anche l'industria, ma Standard & Poor's rileva un boom del debito. Fiat, l'azienda rompe con i sindacati sul contratto, manca l'accordo su una tantum per il 2014. L'appello di Napolitano: si proceda con le riforme, ribadisce il capo dello Stato che il suo mandato è a termine. Caso Ruby, il CSM contro Bruti Liberati sottolinea: doveva motivare l'assegnazione degli atti alla Boccassini. Siria, giallo su padre Dall'Oglio, la Farnesina smentisce contatti con il religioso rapito. E per il calcio, nozze in vista per Balotelli, dal Brasile annuncia il sì della fidanzata. Al di là di fidanzamenti e matrimoni, partiamo da una cosa seria come la polemica politica che sta man mano montando sull'Expo dopo l'inchiesta sugli appalti truccati e gli arresti vari. Il governatore della Lombardia Maroni lancia l'allarme e dice: il governo si svegli o rischiamo di non completare le opere per l'inizio dell'Expo. Mi hanno detto che venerdì ci sarà il Consiglio dei Ministri con un decreto che attendiamo fiduciosi, però ripeto e ribadisco: ogni giorno che passa è un giorno perso, e andando avanti così, se passano ancora questa settimana e la prossima, rischiamo di andare oltre il 30 di aprile senza aver completato le opere. Così il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, ha lanciato l'allarme sull'Expo. I lavori rischiano di non essere completati entro la data di inaugurazione, l'1 maggio 2015, se il governo non approverà nel più breve tempo possibile il decreto che affida i controlli sulle opere a Raffaele Cantone, il presidente dell'autorità anticorruzione voluto dal premier Matteo Renzi dopo lo scandalo sugli appalti truccati. Il governo deve darsi una mossa, altrimenti Expo è bloccata, i lavori sono bloccati e francamente non trovo un motivo, ha detto Maroni, secondo cui bisogna stendere un velo pietoso sui ritardi dell'esecutivo. Oltre alle polemiche sulla tempistica, Maroni ha dichiarato più volte la sua contrarietà a togliere i lavori alle imprese coinvolte nell'inchiesta milanese. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano intanto ha rassicurato: il provvedimento sulla corruzione garantirà a Cantone i poteri necessari per una vera prevenzione. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece occupiamoci del Mose, commentando i risultati dell'indagine, quindi all'Expo al Mose. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha commentato: abbiamo una profonda indignazione, quello che sta emergendo dai fatti del Mose è una vera vergogna inaccettabile che allontana gli italiani dalle istituzioni, dobbiamo reagire duramente. Tra l'altro Alfano oggi è intervenuto anche sull'emergenza immigrazione. Dopo i 1320 sbarcati ieri, oggi sono 1027 gli immigrati arrivati a Taranto, provengono in gran parte dalla Siria e dall'Africa subsahariana. Fra di loro ci sono anche 252 minori. Soccorsi dai mezzi della missione Mare Nostrum nello stretto di Sicilia, sono stati trasportati nel porto pugliese a bordo di nave San Giorgio e nelle prossime ore saranno smistati verso strutture di accoglienza in altre località italiane. 209 invece gli immigrati sbarcati sempre oggi a Pozzallo Mugello, nel Ragusano, qui la polizia ha arrestato gli scafisti dei due gommoni che si erano ribaltati durante le operazioni di soccorso, causando la morte di almeno 3 immigrati. Altri 20 migranti su una barca di appena 8 metri stamattina sono stati intercettati a sorpresa da una motovedetta nel sud della Sardegna, in una zona molto distante da quelle interessate dai recenti flussi migratori. Nel pomeriggio al Viminale il ministro dell'Interno Alfano ha ricevuto una delegazione dell'Associazione dei Comuni. Al centro dell'incontro le misure con cui fare fronte alla nuova ondata di sbarchi. Giovedì verrà anche affrontato il nodo delle risorse straordinarie chieste dai comuni per l'assistenza dei migranti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso lo scontro interno alla Procura di Milano. Arriva una prima pronuncia dalla 7ª Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, quella che si occupa dell'organizzazione degli uffici, e ipotizza che vi siano gli estremi per un'azione disciplinare. Un'azione disciplinare per entrambi i protagonisti dello scontro, sia per il procuratore capo sia per il suo vice. In attesa del plenum, la 7ª Commissione del CSM propone di inviare al PG della Cassazione Ciani e al Guardasigilli Orlando gli atti di quella che è diventata una guerra civile all'interno della più importante procura. Le contestazioni a Bruti Liberati riguardano le assegnazioni di delicate inchieste come quella Ruby. Doveva motivare il coordinamento a Ilda Boccassini, capo dell'antimafia, per scongiurare, scrivono i consiglieri, ogni sospetto di gestione personalistica. Su questo dunque il CSM avalla la tesi di Robledo e lamenta per i casi Ruby Bis e Terra il suo mancato formale coinvolgimento come coordinatore dei reati contro la pubblica amministrazione. Scelte queste non in linea con i criteri organizzativi, marca il CSM, e per questo chiede una pronuncia dei titolari dell'azione disciplinare. Ma rilievi vengono mossi pure all'aggiunto Robledo per i ritardi nelle sue segnalazioni sui casi Ruby e Sea, per la storia ancora non chiarita del doppio pedinamento nell'inchiesta Expo e per aver rischiato di svelare atti coperti. Il caso approderà al plenum forse il 18 giugno, alla vigilia cioè del processo d'appello Ruby a Berlusconi, e di sicuro lo scontro tra toghe avrà altre ripercussioni anche dentro le aule del Tribunale. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo adesso all'economia italiana, per la quale ci sono delle indicazioni un po' altalenanti, poi ne parleremo in modo particolare, ma intanto occupiamoci dei segnali incoraggianti. Qualcosa sembra muoversi per l'economia del nostro paese. Da una parte l'OCSE, che indica l'Italia come unico paese del G7 dove la crescita accelera, dall'altra l'Istat, che segnala ad aprile una produzione industriale con segno positivo dopo mesi di battute d'arresto, più 1,6% rispetto ad aprile 2013 e più 0,7% rispetto a marzo di quest'anno. Il dato tendenziale, spiega l'Istituto di Statistica, è il più alto dall'agosto 2011. E qualcosa sembra muoversi anche per i consumi, cresciuti nel primo trimestre dello 0,1%, in evidenza la spesa delle famiglie residenti. L'Istat conferma però anche la battuta d'arresto del PIL, che cala nel primo trimestre dello 0,1 rispetto al quarto trimestre del 2013. Altro capitolo quello del decreto IRPEF. Dopo i dubbi dei tecnici del Senato e la volta di quelli della Camera, a finire sotto la lente di ingrandimento degli esperti di Montecitorio e la platea dei beneficiari del bonus degli 80 euro. Secondo i tecnici della Camera, il governo avrebbe fatto i suoi calcoli in base ai redditi del 2011. Oggi la platea, viene spiegato, potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto di vista numerico che del reddito. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda la questione molto complicata, il pasticciaccio di Mutasi, e per le regole per l'acconto, domani col Sole 24 Ore trovate un inserto di 16 pagine che spiega come pagare le tasse sulla casa. Passiamo però a Fiat, perché c'è rottura tra l'azienda e i sindacati sul contratto degli 86.000 lavoratori del gruppo. Fiat e sindacati rompono le trattative per una differenza di 50 euro di aumento annuale. Dopo 8 mesi di confronto per il rinnovo del contratto nazionale del gruppo Fiat, le parti non sono riuscite a trovare un'intesa. Il sindacato, che era partito da una richiesta di aumento di 500 euro per tutti gli 86.000 addetti, è sceso la scorsa settimana a 390 euro sui 1.300 di oggi. L'azienda è arrivata sino ad un'offerta di 250 euro rispetto ai 200 proposti la scorsa settimana. Non è però una rottura traumatica, anche perché sugli aspetti normativi l'accordo è stato raggiunto. Ora i sindacati valuteranno se passare al blocco degli straordinari, sperando di spingere la Fiat a concedere 50 euro in più. Augusto Grandi, Radio 24, Sole 24 Ore, Torino. Era chiaramente un audio un pochino disturbato. Intanto però vi leggo brevemente questa agenzia che riguarda una notifica della Guardia di Finanza per concorso in usura bancaria sono indagati a Trani i vertici della BNL, Unicredit, MPS e di Banca Popolare di Bari. Tra le 62 persone alle quali la Guardia di Finanza di Bari sta notificando l'avviso di fine indagine ci sono anche ex dirigenti di Banca Italia e del Ministero dell'Economia. E agli indagati si contestano tassi usurai e su finanziamenti, insomma. Poi vediamo se ci sono ulteriori aggiornamenti su questa notizia. Intanto passiamo alla politica con il nuovo appello del presidente Napolitano per le riforme, che è poi tornato anche sul suo mandato, ma di questo tema ci occuperemo dopo. Ed è esploso nella notte un ordigno davanti alla sede regionale provinciale del PD. L'azione potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere, gli inquirenti stanno visionando i filmati. A inizio maggio c'erano stati altri atti vandalici ed erano apparse scritte che dicevano: siete tutti responsabili del massacro sociale. Enza Lodo ha intervistato il questore Raffaele Micillo. Tanto direi che è un fatto molto increscioso, insomma, ecco, che non tanto per i danni causati, ma bensì più che altro per il significato intrinseco della questione, diciamo, direi che ha un valore abbastanza significativo. E le piste che stiamo seguendo, noi ci guardiamo intorno a 360 gradi, cerchiamo di capire bene tutto, di tutto, di più, e di poi orientarci man mano, diciamo, nelle indagini. È chiaro che il tutto avverrà in modo molto ponderato. Dopodiché cercheremo di trovare il momento buono, il punto di partenza buono, lo spunto buono per poter poi eventualmente sviluppare, ammesso che ci sia, di sviluppare le indagini nella direzione giusta. È stata scelta Firenze, inevitabile una lettura politica. È la città del Presidente del Consiglio, quindi potrebbe voler significare forse qualcosina in più, ma questo da precisare che è accaduto anche in altre città. Per quanto riguarda il tipo di ordigno usato, dice qualcosa? I rudimentali sono bombolette almeno, siamo anche qui in fase di accertamento. Quali misure avete predisposto? Un maggiore allertamento, un incremento della vigilanza sul territorio, ecco, poi saremo a vedere. E adesso spostiamoci all'estero, alla Farnesina, al Ministero degli Esteri italiano. Non risulta che vi siano stati contatti tra una delegazione italiana e padre Paolo Dall'Oglio, come diffuso da diversi mezzi di informazione. Lo dichiara in una nota il Ministero. Vi ricordo che il padre gesuita Paolo Dall'Oglio è stato rapito in Siria nel luglio del 2013. Scusate. Riprende stasera alle 21 l'incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Unione Europea sul prezzo del gas acquistato da Kiev e i rimborsi del debito. Al tavolo del negoziato siedono il commissario Gunther Oettinger e i ministri dell'energia russo e ucraino, e ieri sera c'è stato un primo round di discussione di questo incontro durato 7 ore, ma diverse questioni sono rimaste aperte. Insomma, c'è il problema delle forniture di gas e vedremo se riusciranno entro stanotte ad arrivare a una conclusione. Torniamo in Italia perché la commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, dell'Agenzia per il Farmaco, si è espressa a favore dell'inserimento dell'Avastin nell'elenco dei farmaci a carico del Sistema Sanitario Nazionale per trattare la degenerazione maculare legata all'età. L'azienda produttrice Roche, insieme alla Novartis, che produce il più costoso Lucentis, se vi ricordate, era stata multata dall'antitrust per il cartello, cioè per gli accordi sottobanco. Per chiudere con Ballotelli, che dal Brasile annuncia il suo matrimonio, ma di questo parleremo un po' più tardi. Adesso vi ricordo che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Mi accorgo invece che c'è un problema tecnico per i messaggi al 349-238-6666. Mi sa che stasera non so se riesco a leggerli. Intanto però vediamo se si aggiusta qualcosa durante la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Adesso ve le ricordo brevemente le notizie, tra poco cominceremo ad affrontare i vari argomenti con gli ospiti in diretta. Tra poco controllo se funziona la pagina Facebook di Effetto Notte, mentre continua a essere bloccato. O ne avete scritti troppi di messaggi al 349-238-6666 o non so che cosa sia successo. Ma intanto vi ricordo i fatti principali di questa giornata. Per Expo l'allarme di Maroni, a rischio dice le opere, Renzi replica, no ai professionisti del pessimismo, e poco fa ha anche detto Maroni pensi alla responsabilità della Lombardia. Poi produzione, c'è un balzo di primavera, anche l'Ocse vede la ripresa per l'Italia, il ministro Padoan dice ora le riforme, lo Standard & Poor's però commenta l'Italia stia attenta al debito. Napolitano oggi interviene al premio per i David di Donatello, dice il mio mandato è a termine, bisogna liberarsi però del passato, andare avanti con le riforme. Fiat rompe con i sindacati sul contratto, stop agli straordinari. E c'è il sì alla fecondazione eterologa, avere figli è un diritto assoluto, queste sono le motivazioni della consulta, le coppie siano libere di decidere. Vi ricordate una notizia di un po' di settimane fa, sono state pubblicate le motivazioni della decisione della Corte Costituzionale, avere figli è un diritto assoluto. E poi per il mondiale Galeotto fu il Brasile, Balotelli chiede la mano di Fanny. Dicevamo l'appello di Napolitano andare avanti con le riforme, ma anche oggi in occasione dell'annuncio dei candidati al premio Davide Donatello, la 58esima edizione, è intervenuto anche sulla durata del suo mandato, l'ha definito praticamente un temporaneo prolungamento per il bene del paese, ma dice il mio mandato è a termine. Chiedo conferma a un quirinalista come Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera. Ciao Marzio. Buonasera a voi, ciao. Senti, ma è un rassicurare che lui prima o poi si mette da parte verso i vari che insomma non sono suoi detrattori, oppure un mettere le mani avanti? Che intenzioni ha? Perché lui adesso che cosa ha? 88 anni mi sembra? Ne sì. Fa 89 il 29 di giugno, tra pochi giorni. Anche se ci pare in perfetta forma, no? Quasi un novantenne, 89 anni. Sì, e, sì. Che intenzioni ha quindi? Perché lui è stato Presidente della Repubblica, eletto nel 2006 e poi sappiamo è stato rieletto nel 2013, no? Sì, diciamo che anche nel discorso di insediamento, quello che fece al Parlamento, che era un atto d'accusa anche molto duro, già allora lui disse si è dischiusa una finestra per tempi eccezionali, come già lasciava intendere che quando fosse, era ovvio, no, che non avrebbe fatto altri 7 anni, ma dato la situazione di difficoltà del Parlamento e della politica accettava a patto che fossero fatte alcune cose, la prima delle quali era la riforma della legge elettorale, senza la quale naturalmente non si può tornare a votare e non può essere sciolto il Parlamento. Secondariamente che fossero varate quelle 2-3 riforme costituzionali, cioè la riforma del Senato per superare il bicameralismo perfetto e garantire una maggior governabilità, forza ai governi, diciamo, e poi la riforma del titolo quinto, quella sul federalismo che è altrettanto importante e urgente. Quindi, allora è chiaro che il Presidente lascerà quando è stata fatta almeno la riforma della legge elettorale e quando siano state avviate, perché è un percorso un po' lungo, per no, come sappiamo, quello delle riforme costituzionali, e dopodiché ovviamente pensa di lasciare. Ragionevolmente, siccome poi adesso si apre il semestre italiano di guida dell'Unione Europea, il 2014 se ne va, parliamo del, diciamo, è logico proiettarsi nella primavera, da febbraio in poi ogni momento sarà buono, del 2015. A essere ottimisti, perché bisogna vedere poi quando si arriva davvero a una legge elettorale definitiva e quando ci saranno queste riforme. Però Marzio Breda, sentiamolo anche proprio dalla sua viva voce un passaggio di Napolitano del suo intervento. Non potevo mancare oggi, visto il temporaneo prolungamento del mio mandato, che cerco ancora di esercitare nei limiti del possibile, ma fermamente e rigorosamente attenendomi esclusivamente alla considerazione dell'interesse generale del Paese. E l'interesse generale del Paese suggerisce oggi cambiamenti e riforme in molti campi, riforme anche in campo istituzionale. E dice Marzio Breda, anche Napolitano, il paese si liberi dagli schemi del passato. Detto da un uomo di quasi 90 anni fa un certo effetto, anche se appunto si continua a parlare soprattutto dall'emersione di Renzi in poi, da quando è comparso sulla scena politica, no? di svecchiamento, di rottamazione, di cambio generazionale, di una serie di cose. In questo senso che cosa vuole dire esattamente secondo te con liberarsi degli schemi del passato? Sì, questa è un'allusione naturalmente ai provvedimenti che devono essere presi con una certa urgenza in campo economico per agguantare la ripresa, insomma, lì. E quindi questa è una raccomandazione che può essere indirizzata a diversi interlocutori, comprese le parti sociali, compresi i sindacati. È chiaro che bisogna fare delle cose di rottura, appunto rompere certi schemi del passato, e anche forti, altrimenti questa ripresa non partirà e l'Italia, che è già in grave sofferenza, sente i morsi della crisi, non si rimette in carreggiata. E poi per l'appunto che Napolitano lo ha dedotto anche dal risultato elettorale, intendo del voto europeo, Napolitano, non solo lui per la verità, ha letto il voto europeo fatto in Italia come una aspirazione, una speranza di stabilità e di cambiamento nel contempo, e quindi è a questo che alludeva quando ha citato questa cosa. È chiaro che il terreno più scivoloso è quello della legge elettorale, perché adesso, dopo anche il risultato delle amministrative, i partiti, diciamo così, ognuno cercherà di proporre formule in grado di agevolarli e non avvantaggiare troppo l'antagonista, l'avversario, e quindi in questo senso va fatto un tagliando quanto prima del vecchio accordo, vecchio poi di 3 mesi solo, fra Renzi e Berlusconi, ma nel contempo vanno avviate anche le altre due riforme, insomma, cioè la riforma del Senato, eccetera. Ora c'è Renzi che è molto impaziente, no? Sappiamo e vediamo, vuole mette fretta, eccetera, e non tollera granché le critiche, le obiezioni. Anche se la riforma elettorale non doveva essere fatta entro il 10 giugno, o sbaglio? Tu te lo ricordi, Marzio? Però, poi sì, questo secondo il vecchio calendario dello stesso Renzi. Però adesso un nuovo calendario adesso. Sì, siccome c'è una... hanno capito tutti la difficoltà della nuova legge elettorale da varare, la si pospone, si ritiene di poterla posporre e cominciare almeno nella prima lettura Camera e Senato, ormai cominciare a lavorare sull'altra, la riforma del Senato, e quindi si, anche perché quando si cambia la legge elettorale, il sistema elettorale, e scatta una specie, è sempre avvenuto così nella storia repubblicana, scatta una specie di automatismo, viene voglia di fare una gran corsa al voto, questo succede, e siccome il nuovo capo dello Stato verosimilmente sarà eletto da questo Parlamento che abbiamo oggi, non dal prossimo, perché è impensabile una crisi di governo e di andare al voto con quella specie di relitto che abbiamo del Porcellum, così come c'è rimasto dopo la sentenza della Corte Costituzionale, e quindi ecco che in un certo senso può essere quasi provvidenziale rinviare all'autunno la legge elettorale e prima concentrarsi sulle misure economiche e sulla riforma del Senato. Senti Marzio, in chiusura ti faccio sentire anche un altro passaggio di Napolitano, visto che era appunto alla cerimonia per i David di Donatello, poi tra poco darò i risultati che sono arrivati pochi istanti fa, diciamo ha espresso, un po' confidato certe sue velleità della gioventù, sentiamo. Questa è la preistoria, tua e mia, perché come si sa anche io fui tentato di avventurarmi per le strade del cinema e del teatro, poi mi sono perso per altre strade, ma riesco a ritrovare la passione di sempre quando mi incontro con voi, anche la passione delle sale che non ho mai smesso di frequentare anche da quando esistono la televisione e i DVD. Insomma, avremmo avuto non un presidente napolitano, ma un attore di commedie, di cinema drammatico, chi lo sa, insomma. Da giovane, da studente universitario, recitò anche alcune parti. Devo dire che alcuni dei suoi amici di allora, Franco Rosi, il regista, no? L'hanno sconsigliato? Sì, no, insomma dicevano che era piuttosto ingessato come attore, forse non era proprio versatissimo, ma insomma il teatro, la regia, la recitazione è una cosa che lo ha sempre molto appassionato, e non a caso lui ha fin dalla giovinezza amici che poi hanno fatto strada anche, e quindi per esempio al Quirinale, dove c'è una piccola saletta di proiezioni, spessissimo vengono proiettati film in anteprima, prima che escano nelle sale, oppure lui va a teatro, è una cosa abbastanza risaputa. Che ha questa passione, insomma. È una sua passione culturale che si porta dietro fin da ragazzo. Bene, Marzio Breda, ti ringrazio. Grazie Marzio, grazie a presto. Teatro. Ciao a te. E vi dico che Il capitale umano di Paolo Virzì, il miglior film ai David di Donatello, il noir ambientato in Brianza che tanto ha fatto discutere quando è uscito mesi fa, e poi invece incetta di riconoscimenti per La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che ne ha vinti ben 9 dopo l'Oscar, che ha vinto il Golden Globe e numerosi altri riconoscimenti internazionali. Ma adesso è tempo di parlare di questioni meno amene con Sara Monaci. Ciao Sara. Sì, ciao. Del Sole 24 Ore, senza volertene, ma allora oggi per Expo il presidente della regione Lombardia Maroni ha lanciato l'allarme: rischiamo di non finire le opere, e ha detto ogni giorno che passa è un giorno perduto, è passato un mese da quando il premier Renzi è venuto a Milano, siamo ancora in attesa di questi poteri a Cantone, sì, chiamato a vigilare, che è il presidente dell'autorità anticorruzione, chiamato a vigilare sull'Expo. E poi si è vista la replica dura di Renzi poco fa, che ha detto Maroni pensi alle responsabilità che ha la Lombardia. Sì, è un battibecco ormai noto e lontano nel tempo, insomma affonda le sue radici diciamo già mesi fa, però ecco, la polemica su Expo è più recente, ma in realtà si tratta di un battibecco di tipo politico. A voler leggere però dietro la polemica di oggi esiste comunque un allarme reale per la vicenda Expo. Cosa sta accadendo? La città di Milano si sta aspettando un decreto importante, perché al di là dell'inchiesta, anzi oltre all'inchiesta che ha visto coinvolto l'Expo, deve anche sancire alcuni passaggi molto importanti per la realizzazione delle opere. Di cosa si tratta? Degli affidamenti che potrebbero essere dati alla Fiera di Milano per creare i padiglioni, la possibilità anche di ristrutturare i contratti per quelle aziende che lavorando nel sito chiedono però degli extra costi, di cui avevamo già parlato anche nelle nostre pagine, e in generale si tratta di riorganizzare la struttura di Expo anche a seguito delle inchieste che l'hanno vista coinvolta. Quindi diciamo esiste un problema reale. I ritardi ovviamente non sono di oggi, non sono nemmeno dovuti all'inchiesta. I ritardi dell'Expo esistono, in parte sono risolvibili, in parte no. All'Expo ci si arriverà certamente con un dossier di infrastrutture molto ridotto, quindi al 50% circa rispetto a quanto si era deciso tra il 2007 e il 2008, quando Milano vinse la candidatura. Pensa un po', il 50% in meno, circa, tantissimo, la metà. Circa. Sì, bisogna dire che alcune opere sono opere anche di pertinenza regionale, quindi necessariamente legata proprio al sito espositivo, però sappiamo che quando un paese si candida al BIE, all'ufficio internazionale che dà la storia, che stabilisce in base ad un dossier qual è la città più meritevole di ospitare l'Expo, allora il paese propone una serie di innovazioni, di miglioramenti che riguardano non soltanto la città ma anche il territorio. Parliamo di grandi opere come la Brebemi, la Pedemontana, la Tangenziale, quindi non soltanto la metropolitana di Milano ad esempio. Certo. Ecco, anche su questa bisognerebbe dire che questa è un'opera fondamentale, ma soltanto una nuova linea, la metro 5, sarà pronta, mentre la metro 4 no. Ci sono proprio delle cancellature ormai date per scontato, quindi il calcolo che abbiamo fatto noi qua al Sole 24 Ore è che circa il 50-60% sarà pronto per l'Expo. Quindi Expo che deve essere inaugurato poi il 1 maggio 2015, ricordiamo. Sì. Quindi veramente sì, meno di un anno. Senti, per prima di lasciarci Sara Monaci, visto che tu stai seguendo varie inchieste, anche quella del Mose, sì, dall'Expo passiamo al Mose, ti chiedo solo questo. Sì. Oggi alcuni media avevano fatto anche il nome tra i possibili personaggi coinvolti, politici coinvolti, anche di Gianni Letta, no? Ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e stasera leggevo che ha dato incarico all'avvocato Coppi di procedere per via legale a tutela della sua reputazione per le notizie oggi diffuse dalla stampa e relativi commenti. Allora, per essere corretti, anche garantisti, bisogna dire che in questa inchiesta ci sono molti nomi, alcuni compaiono esplicitamente, altri sembrano diciamo dei convitati di pietra. Calcolate che la documentazione è molto ampia e sempre più ampia, per cui ci sono sempre nuove carte che possiamo leggere, approfondire. Ci sono sono dei nomi, ma attenzione, il nome di qualcuno che viene citato all'interno di un interrogatorio non si trasforma necessariamente per un procuratore in un'indagine, certo, e nemmeno in un reato penale. Se poi bisogna anche distinguere il piano dell'opportunità politica con il piano penale, cioè evidentemente ci sono dei contatti con dei politici che possono essere anche imbarazzanti, il tentativo ad esempio del consorzio Nuova Venezia, che è quella che costruisce il Mose, di sbloccare dei fondi del CIPE e magari riuscendoci pure, però questo non significa che si trasformi in un'indagine, certo, vedendo certo il nome di Letta che compare sicuramente nelle carte, compare però anche la scritta non, Letta non dà garanzie di dare quello che viene chiesto, sicuramente ci sono dei colloqui, ci sono dei colloqui con dei faccendieri che sono finiti in custodia cautelare, quindi diciamo anche l'opportunità politica di avere qualcuno che ha anche rapporti così insidiosi. Però vedremo che sviluppi poi prenderà anche questa cosa, però, lui appunto. Però non tutto si trasforma, tutto ciò che è questo, indagato, tutto ciò che è un verbale, esatto, non si trasforma in un indagato. Grazie Sara Monaci per questi aggiornamenti. Prego. Buon lavoro, ciao Sara. Grazie. Ciao. Bene, adesso possiamo prenderci una pausa. Vi confermo che i messaggi non funzionano, è colpa di un ascoltatore che ha scritto una specie di papiro, neanche la stella di Rosetta, una roba lunghissima che non si può leggere, ha praticamente bloccato, congestionato gli sms. Preferite la pagina Facebook di Effetto Notte, preferitela sempre, ma in particolare stasera, dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi. Adesso vi riepilogo brevemente le notizie del giorno, ma c'è una che bomba che vi dirò soltanto alla fine di questo riepilogo. Vediamo, ecco qui se la ritrovo. Allora, partiamo da naturalmente l'Expo 2015, abbiamo parlato del Presidente della Regione Lombardia Maroni che lancia l'allarme, il governo si svegli o rischiamo di non completare le opere, ma dal PD, da Renzi in particolare, arriva il commento: non faccia lo scaricabarile, pensi alla responsabilità della Lombardia. Crisi, la valutazione dell'Ocse dice che l'Italia è l'unica ad accelerare nel G7, riparte anche l'industria, ma Standard & Poor's rileva un boom del debito. Fiat, l'azienda rompe con i sindacati sul contratto, manca l'accordo su una tantum per il 2014. L'appello di Napolitano, si proceda con le riforme, intanto ribadisce che il suo mandato è a termine. E poi Siria, giallo su padre Dall'Oglio, la Farnesina smentisce contatti con il religioso rapito. Per quanto riguarda i David Donatello, c'è stata la cerimonia di premiazione, ha vinto il Capitale Umano di Virzì come miglior film, però 9 riconoscimenti alla grande bellezza di Sorrentino. E adesso arriva questa notizia come un fulmine, c'è il sereno, non lo so dire, comunque un'inchiesta della Procura di Trani, usura bancaria, indagati vertici di BNL, Unicredit, MPS e Banca Popolare di Bari, se non sbaglio. Sì, Banca Popolare di Bari, e tra gli indagati, tra le 62 persone, vi davo prima una piccola anticipazione, ci sarebbe anche l'ex ministro e capo della vigilanza di Banca Italia, Fabrizio Saccomanni. E quindi chiedo subito aiuto ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Io avevo intenzione di farti altre domande sull'economia altalenante dell'Italia, ma questa è una notizia abbastanza bomba? Sì, indubbiamente colpisce, anche se poi bisognerà vedere come andrà a finire l'inchiesta, naturalmente. Certo. Sono indagati i vertici di BNL, Unicredit, Montepaschi e Banca Popolare di Bari e l'ex capo della Banca d'Italia della Vigilanza, che è poi la presidente della RAI Tarantola, oltre al ministro Saccomanni, all'ex ministro Saccomanni, nonché direttore generale della Banca d'Italia. La cosa viene dalla Procura di Trani, che è un luogo che si sta specializzando in inchieste ad alto potenziale mediatico finanziario, diciamo, non ultima quella sulle agenzie di rating, ricorderanno gli ascoltatori che sempre da Trani è stato istruito un processo contro le agenzie di rating, vedremo anche lì cosa succederà. Hai detto una cosa che ha una venatura un po' polemica, no, si sta specializzando in inchieste. Beh, no, questo è vero, questo sicuramente colpisce, perché che la Procura di Trani sia un luogo che effettivamente porta innanzi cause che hanno un potenziale così forte sul mondo della finanza è sicuramente encomiabile, però davvero colpisce, perché non è un luogo proprio che sta al centro diciamo, delle dinamiche italiane, finanziarie, nazionali e internazionali. Questo mi colpisce, semplicemente questo. L'importante è che lo faccia qualcuno e che lo faccia con cognizione di causa. È chiaro, quello è fondamentale, sicuramente. Senti, invece Alberto, quindi in attesa di capire come i dettagli e come procederanno le cose, invece io ti volevo parlare di queste notizie che ormai è diventato un classico per noi, no? Così altalenanti, un po' ambigue, un po' ondivaghe, un po' sì, un po' no, un po' positive, un po' negative. Allora, oggi l'OCSE ha detto che l'Italia è l'unica nel G7 che ha una certa crescita, no? Se non sbaglio. Ha detto questo l'OCSE, e poi c'è anche un lieve aumento della spesa delle famiglie e sale la produzione industriale. Però nello stesso tempo l'Istat conferma le stime sul PIL italiano diminuito nel primo trimestre 2014 dello 0,1%, e poi anche l'altra notizia negativa è che quella di Standard & Poor's, che dice che l'Italia ha un boom di debito insieme a altri paesi del sud dell'Unione Europea. È esattamente così, l'Italia ancora è un paese che non ha imboccato la strada di una ripresa salda, vigorosa e veloce, è ancora un paese che sta cercando di cambiare la sua congiuntura, sta mobilitando tutte le sue risorse, tutte le sue energie per cambiare un po' lo stato della situazione. Il segnale della produzione ad aprile è sicuramente positivo, perché in ragione d'anno è un aumento del più nel 6%, che è una buona performance, però già il Centro Studi Confindustria ha segnalato che a maggio probabilmente lo stesso indicatore rimarrà fermo, rimarrà a zero, quindi in termini congiunturali non avrà effettuato spostamenti, e quindi questo significa che c'è ancora un andamento altalenante. Basta guardare i grafici, sono seghettati, come sono proprio i grafici dell'incertezza. Purtroppo la ripresa ancora non è consolidata, gli investimenti ancora tardano a dispiegare compiutamente i loro effetti, e quindi l'Italia ancora non ha imboccato proprio la strada dell'uscita vigorosa dalla recessione, anche se la recessione è tecnicamente finita, pur con la brutta sorpresa del PIL che era calato. La disoccupazione è sempre altissima. Senti, adesso si torna sul debito, non sicuramente continuerà a tormentarci per molti anni. Si torna, prima di lasciarti, sul bonus da 80 euro. Adesso non solo i tecnici del Senato tempo fa avevano espresso dubbi sulle coperture, Renzi si era molto arrabbiato, no? E aveva quasi voluto accelerare sulla riforma del Senato. Però adesso sono i tecnici di Montecitorio, quindi della Camera, che dicono: i destinatari del bonus sono stati identificati in base ai redditi 2011, ma la platea di quelli che ne dovrebbero usufruire potrebbe aver subito un cambiamento significativo, sia dal punto numerico sia del reddito. Quindi qua c'è un altro. Sì, esatto. I tecnici della Camera si sono esercitati sul considerare quale sarà l'effettiva platea dei percettori degli 80 euro, che è un po' diversa da quella che era stata disegnata in un primo tempo dal provvedimento del governo Renzi. Sì, insomma, questo ancora una volta dimostra quanto. Ma nella busta paga di maggio c'erano o no questi 80 euro? C'erano, per molti c'erano, indubbiamente sì. Però appunto forse non esattamente tutti quelli che speravano che lo avrebbero preso lo hanno percepito effettivamente quel bonus. È così. Vediamo se procederà e se la platea dovrà allargarsi, restringersi. Capiremo, insomma, abbiamo visto vari dubbi su questi 80 euro, intanto procediamo così. Caro Alberto Rioli, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro. Grazie a continuare voi. Col Sole 24 Ore che deve chiudere Alberto, e adesso io chiudo momentaneamente, ci sentiamo subito dopo la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E fra le notizie di oggi vi ricordo che è Il capitale umano di Paolo Virzì, notizia di poco fa, il miglior film al Davide di Donatello, il noir ambientato in Brianza, vi ricordate? Poi ha fatto incetta di riconoscimenti La grande bellezza di Paolo Sorrentino. E poi l'allarme lanciato su Expo da Maroni, dal governatore della regione Lombardia, che dice qui i lavori vanno a rilento, è stallo, e poi Renzi che replica: Maroni pensi alle responsabilità della Lombardia. E abbiamo visto anche poco fa commentata la notizia, adesso in primissimo titolo, l'inchiesta della Procura di Trani, usura bancaria, indagati vertici della BNL, Unicredit, MPS e Banca Popolare di Bari. Tra le persone indagate ci sarebbe anche l'ex ministro Fabrizio Saccomanni, ma sarà da approfondire. Adesso però passiamo a un altro tema. Parliamo di Uber, che è la multinazionale americana che ha lanciato un'applicazione per telefonini che mette in rete le auto a noleggio con conducente. Le trasforma di fatto insomma in un servizio alternativo al taxi. È un'applicazione, la cosiddetta app, per prenotare una macchina con conducente grazie a uno smartphone o alla carta di credito. È una cosa che ha fatto molto arrabbiare i tassisti, ne abbiamo parlato giorni fa. Ebbene, domani, mercoledì, ci sarà una nuova mobilitazione, ma questa volta a livello internazionale. Stop a Milano, in tutta Europa, dei tassisti. Un fronte estremamente unito. Insomma, vorrei sapere cosa ne pensa di questa vicenda, di questa applicazione. Carlo Alberto Carnevale Maffè, buonasera. Buonasera a voi. Docente di strategia e politica aziendale all'Università Bocconi. Ci spieghi un po', insomma, dove stanno ragioni, torti? Dovrebbe essere super pazzo. Stanno reagendo a un'evoluzione tecnologica inarrestabile che peraltro pone tre problemi. Il primo è quello giuridico, ovvero se le regole sono rispettate, regole di un servizio, quello dei tassisti, che però obbedisce a una logica, che è quella del servizio universale, quindi aperto a tutti, che non è la stessa a cui si rivolge Uber. Uber in realtà richiede un'iscrizione, una adesione e quindi per esempio la titolarità di una carta di credito e di un telefonino, che non è una cosa che sta in mano a tutti. La percentuale di telefonini smart in mano agli utenti è circa il 60%, le carte di credito sono ancora di meno. Il secondo punto è di tipo economico, e cioè per la prima volta c'è un mercato e non è una tariffa nel trasporto urbano di servizio, e questo è un elemento importante, perché i tassisti sono abituati ad avere una tariffa regolamentata, invece Uber introduce una vera e propria legge di domanda e offerta, i prezzi possono salire molto ma possono anche scendere. Il terzo elemento è proprio di tipo tecnologico, e cioè non è più necessario prendere il taxi per strada o fare 22 numeri di telefono cercando la cooperativa disponibile. Basta un touch sul telefonino e si trova la strada migliore, l'offerta migliore e il servizio migliore a scelta del cliente finale, che può scegliere anche il tipo di macchina oltre che il tragitto. Questo ovviamente sconvolge quel negozio di cristalleria tutto, come dire, protetto che è stato il servizio taxi. È in realtà un'ottima notizia per i clienti, ovviamente i tassisti protestano, però posso dire una cosa: nel protestare in realtà stanno riconoscendo a Uber il fatto che la tecnologia è inarrestabile. In effetti proprio oggi scade il termine per l'unificazione dei centralini, quindi finalmente anche a Milano, oltre che in altre città d'Italia, si potrà chiamare un unico numero avendo il servizio taxi condiviso. E su questo c'era bisogno quindi di una smossa, di una scossa per cercare di migliorare il servizio. Come andrà a finire, secondo lei, Carlo Alberto Carnevale Maffè? Appunto, è inesorabile questo cambiamento tecnologico, questa innovazione? È assolutamente inarrestabile, però i servizi conviveranno, come succede sempre, no? Non è che l'arrivo di internet per esempio ha eliminato la radio, per fortuna, e qui siamo qua a sentirci, no? Certo. Semmai l'ha ospitata, no? E quindi quello che succederà è che i tassisti, che comunque hanno una professionalità ed è un parco vetture importante, probabilmente adotteranno tecnologie simili a quelle di Uber e quindi faranno competizione. È evidente che oggi siamo di fronte a un assestamento che richiederà mesi o addirittura anni, ma è un assestamento indispensabile. C'è da dire anche che Uber in America ormai ha raggiunto valutazioni stratosferiche, vale di più di Hertz e di Avis, vale 18 miliardi ed è partecipata dai più grandi gruppi finanziari del mondo, quindi è impensabile fermare quello che ormai è un colosso finanziario. Ma Uber non fa solo servizio taxi, farà servizio logistico, servirà per portare a casa i bambini da scuola o per consegnare le merci. Quindi è impensabile che una piattaforma tecnologica orizzontale possa venire fermata da uno sciopero locale. E quindi rassegniamoci, se siamo tassisti, e da utenti invece accogliamo con favore, con apertura mentale, quello che l'innovazione tecnologica ci offre. Grazie Carlo Alberto Carnevale Maffè, la ringrazio. Grazie a voi. Buona serata. Poi staremo a vedere domani comunque questo sciopero a livello europeo. A proposito di Europa, di Stefano del Movimento 5 Stelle, riprendendo un po' uno slogan anche per quanto riguarda il Parlamento italiano, ha detto: apriremo anche il Parlamento europeo come una scatoletta di tonno. Lo ha intervistato la nostra Betta Fiorito. Europa 24 notte. Buonasera da Montecitorio, questo martedì abbiamo con noi l'onorevole Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle. Insomma, avete raggiunto il numero di 17 parlamentari da mandare a Bruxelles, non è poco, siete soddisfatti? Beh, assolutamente, intanto è una novità che ci siano cittadini che vengono dalla vita normale, dalla vita vera e arrivino al Parlamento europeo. E oggi hanno fatto il loro primo ingresso appunto al Parlamento europeo, dove il loro primo obiettivo, e hanno i numeri per farlo, sarà quello di iniziare a portare fuori un po' di informazioni come abbiamo fatto noi qui al Parlamento italiano. Quindi, come diciamo noi, aprire la scatoletta di tonno è quella di Bruxelles, muove tanti, tanti soldi. Quindi aprirete la scatoletta di salmone in questo caso. Quindi andrete pure lì a spulciare al Parlamento europeo quello che sono le spese inutili? Beh, noi facciamo anche qui al Parlamento italiano un'azione che va in due direzioni. Una è sugli atti legislativi, di andare a controllare davvero dove vanno a muovere, quali pedine vanno a muovere, quindi andare a vedere i commi e tutte quelle cose che non vengono mai osservate perché ci si fida del governo. Noi andiamo a verificare queste cose e poi c'è l'altra azione che è quella sulle spese del palazzo stesso. Sappiamo che il Parlamento europeo, quindi tra Bruxelles e Strasburgo e la terza sede di Lussemburgo anche, spendono una valanga di soldi e sono soldi nostri, dei cittadini europei, e vorremmo sapere come vengono spesi e soprattutto che utilità abbiamo nello spenderli in questo modo. E quella è un'altra cosa che sicuramente faremo. Dal punto di vista politico fa discutere questo vostro referendum sul web per l'alleanza con Farage. Quando partirà, come si svolgerà? Beh, dovrebbe far discutere in termini positivi, secondo me, perché quale altro gruppo politico nella storia ha chiesto ai propri elettori se volessero o meno un'alleanza in termini europei? Noi facciamo sempre così, quindi chiediamo sempre ai nostri elettori, e anche nel caso di Farage sarà così sicuramente. Ma il punto qui è l'alleanza con Farage o meno è un'alleanza che verte esclusivamente sulle tematiche europee, sui nostri 7 punti e su un eventuale gruppo che possa portare avanti quei punti, e uno su tutti, in realtà, che la sovranità nazionale. Poi chiaramente magari ci possono essere anche altri gruppi disposti a farlo, ma in questo momento il nostro capo politico, che è Beppe Grillo, sta sondando un po' tutti i terreni. Avete visto la lettera ai Verdi, alla quale hanno risposto con una roba veramente indecente, nella quale si tiravano indietro in modo preventivo, una cosa che in politica non esiste sostanzialmente, quindi è un chiaro messaggio che non hanno intenzione di portare avanti la sovranità nazionale italiana, ad esempio. Ricordiamo brevemente qualcuno dei 7 punti, tanto per far ricordare i nostri radioascoltatori. Beh, abolizione del fiscal compact, alleanza dei paesi mediterranei, e superamento del vincolo del 3% per lo sviluppo del paese, allevamento, investire sui made in Italy, quindi allevamento e anche agricoltura per uso interno, quindi aiuti in tal senso, e poi il referendum sull'euro nel caso in cui questi punti non si dovessero raggiungere. Allora, ringraziamo l'onorevole Emanuele Di Stefano, ricordiamo che è anche capogruppo in Commissione Esteri per il Movimento 5 Stelle, e allora aspettiamo le prossime battaglie del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. Grazie a voi e sicuramente ne faremo anche lì. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora una sfida titanica per il nostro Dario Ricci dal Brasile, a raccontarci in 48 secondi questa storia di Balotelli che va in Brasile e da lì annuncia il suo matrimonio, fidanzamento. Poteva farlo in Italia, scusa Dario. No, è più esotico via Twitter e a Mangaratiba, non c'è confronto, Roberta. Prime reazioni da parte dello spogliatoio azzurro, da Lorenzo Insigne, le congratulazioni, anche lui tra l'altro si è sposato giovanissimo, e anche da Claudio Marchisi, uno dei big dello spogliatoio, ha detto l'abbiamo abbracciato, l'abbiamo visto tutti durante l'allenamento di stamattina, ma adesso sia noi come squadra che Super Mario dobbiamo pensare al mondiale, insomma, parole chiare, come dire. È finita la ricreazione. Speriamo che non sia il primo matrimonio di una lunga serie, detto proprio così, una cosa, visto che è così giovane. Insomma, è importante che ci sia sempre il sentimento, no? Certo. Come cantava Neri per casa, insomma. Sei poco convincente, Dario, ma romantico comunque, insomma, questa venatura. Possiamo chiudere così, allora ci risentiamo domani con più spazio dal Brasile domani, con Dario Ricci. Sì. A domani, caro Dario. Ciao, ciao Dario. E noi ci sentiamo tra pochissimo.